Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di noi, parliamo dell'economia italiana, parliamo delle prospettive dell'Italia, soprattutto sulla base di quanto è avvenuto negli ultimi anni, e lo facciamo con il professor Alfredo Macchiati. Buonasera, professor Macchiati. Buonasera. Alfredo Macchiati insegna politica economica alla LUISS di Roma, è autore di diversi volumi sulle privatizzazioni, sull'insider trading, e l'ultimo volume che ha curato è questo: Perché l'Italia cresce poco, edito dal Mulino. È un insieme di saggi appunto sulla realtà del sistema italiano, un sistema che da almeno 20 anni o forse più cresce meno degli altri paesi. Allora forse la curiosità immediata è: si può dare una risposta così un po' rapida a questa domanda, che nel titolo del libro peraltro è senza punto di domanda? Perché l'Italia cresce poco? Cresce poco, quali sono le ragioni di fondo? Alfredo Macchiati. Le ragioni di fondo risiedono nel cattivo funzionamento delle nostre istituzioni politiche. Le istituzioni politiche in Italia almeno dal 92 non hanno funzionato bene, e in realtà non funzionavano bene neanche prima, perché la crisi dello SME del 92 è conseguenza di quel debito pubblico che era stato accumulato in tutti gli anni 70 e 80. Quindi diciamo l'eredità che l'Italia oggi si trova a dover affrontare è un'eredità che risale molto indietro nel tempo. Gli ultimi 20 anni non hanno aiutato a risolvere i problemi, anzi li hanno forse aggravati, perché questo eccesso di alternanza che c'è stato nei governi ha svuotato le politiche economiche di credibilità. La vera politica economica dei governi, sia di centrosinistra che di centrodestra, era smontare le riforme del governo precedente. E quindi questo è un po' l'esito che ci troviamo a dover. Ecco, quindi in questo libro c'è un po' una prospettiva complessiva di tutti i temi, si va appunto dalle istituzioni politiche a quelle della giustizia, che sono parte poi delle istituzioni politiche, al fisco, un fisco che spesso è visto giustamente come qualcosa che mira di più a raccogliere delle risorse per lo Stato che non ad equilibrare, a svolgere un compito di equilibrio, di riduzione delle disuguaglianze, ma anche poi le istituzioni economiche private. Lei appunto nel libro accenna al fatto che c'è un capitalismo molto di relazione, molto familiare. Anche questo un portato un po' della difficoltà italiana, un capitalismo, spesso si è detto, un capitalismo senza capitali. Alfredo Macchiati. Guardi, io al capitalismo senza capitali, per la verità, non credo fino in fondo, nel senso che il paese ha un tasso di risparmio che da tempo è elevato, la ricchezza finanziaria, diciamo così, anche se distribuita in modo non equilibrato, è una ricchezza finanziaria consistente. Quindi diciamo non è un capitalismo senza capitali. Naturalmente il nostro sistema è cresciuto concedendo sussidi, vantaggi fiscali, e questo è protezione soprattutto nei servizi, perché nel manifatturiero ovviamente siamo in un mercato globale e quindi non c'è protezione, ma nei servizi c'è molta protezione, e infatti se poi andiamo a guardare i livelli di produttività nei servizi sono molto bassi. Ecco, questo rende naturalmente, diciamo così, incentiva poco a ricercare le dimensioni efficienti. E quindi si resta un po' piccoli, gli studi legali restano piccoli, almeno che non siano quelli di diciamo così di derivazione anglosassone, le imprese di servizi in generale restano piccole, la protezione è alta, i prezzi sono elevati, e diciamo questa che è una parte importantissima per far girare l'economia è arretrata. Ecco, però il 2016 si è chiuso con un dato positivo, dopo alcuni anni di recessione c'è stata una svolta, qualcuno ha detto la svolta buona, si parla anche nel libro della svolta buona con il punto di domanda, c'è qualcosa che sta cambiando, che è cambiato al di là appunto delle turbulenze politiche degli ultimi mesi che sicuramente si riverberanno anche nei prossimi mesi, però nella struttura dell'economia italiana c'è qualcosa che possiamo dire possa dare qualche elemento, se non di ottimismo, perlomeno di positività nel guardare in avanti? Ma diciamo l'elemento di positività e forse anche di ottimismo è che esiste questa fascia delle imprese medie manifatturiere che in molti settori è all'avanguardia e che tiene la nostra bilancia commerciale avanti, diciamo, in positivo, almeno. Diciamo, questo è il pezzo dell'economia italiana che resiste. Diciamo, non è una novità, nel senso è una recente, è una novità degli ultimi, 10 anni forse, però non è sufficiente a chiudere il gap con l'Europa. Secondo me, per chiudere il gap con l'Europa bisogna intervenire sulla riforma fiscale, tassando di meno il lavoro e tassando di più i consumi, e bisogna intervenire sulle rendite nei servizi, sul livello di protezione dei servizi. Da questo punto di vista purtroppo non ci sono grandissime novità. Chissà che diciamo dopo anche col 2017 qualche cosa venga, spunti fuori di positivo. Questi mi sembrano le due aree critiche: fiscalità e rendite nei servizi. Certo. C'è la grande area critica anche del Mezzogiorno, ne parla spesso nel libro, un Mezzogiorno che qualche sintomo di ripresa c'è stata manifestato negli ultimi mesi, ma soprattutto grazie alla Fiat, che ha appunto portato negli impianti del Mezzogiorno una nuova produzione, una nuova capacità produttiva e anche una grande capacità di esportazione dei prodotti realizzati nel Mezzogiorno. Ecco, invece le politiche pubbliche nel Mezzogiorno restano ancora politiche, se non fallimentari, perlomeno deludenti, professor Macchiati. Guardi, è molto difficile perché ovviamente diciamo, l'amministrazione non è un punto forte dell'economia italiana e non lo è delle istituzioni economiche italiane e non lo è naturalmente neanche al sud, senza voler fare delle ingiuste differenziazioni che dipingano il sud peggio del resto del paese. Ma certamente l'amministrazione, tutte le politiche pubbliche passano più o meno attraverso l'amministrazione e quindi diciamo è il canale di trasmissione, lo potremmo chiamare, che non funziona. La soluzione lì, lo adombro anche nel libro, potrebbe essere ricreare una istituzione ad hoc centrale, non la Cassa del Mezzogiorno che costruisca impianti, cattedrali del deserto, ma un'istituzione centrale che fuori dall'amministrazione tradizionale, un po' come è stata fatta in Irlanda, ecco, studiare queste realizzazioni che paesi che avevano squilibri territoriali altrettanto gravi del nostro e che sono riusciti a colmare, forse potrebbe fornire qualche spunto, qualche indicazione positiva. Ecco, altrimenti il caso italiano resta un po' un'anomalia all'interno anche della stessa teoria economica, una teoria che è molto fondata anche sui cicli che secondo cui da periodi positivi poi si alternano periodi negativi e così via. Ecco, l'economia italiana rischia di essere il primo appunto esempio di quella stagnazione secolare, con questo termine un po' inquietante qualche economista ha definito il periodo attuale, però possiamo comunque avere alcuni elementi su cui puntare. Lei ha parlato appunto delle piccole e medie imprese, dovrebbero essere forse maggiormente difese, maggiormente invitate concretamente a crescere, a diventare medie e grandi imprese, professor Macchiati. Sì, questo sì, sa, è un tema su cui discutiamo in Italia da tanto tempo e non abbiamo ancora trovato, diciamo, la chiave per risolvere questo problema. Ma io direi forse che alla fine, visto che riescono a essere competitive, questo nucleo della media impresa, forse diciamo non è lì che dobbiamo indirizzare le nostre diciamo sforzi di riforma. Torniamo un po' a quello che è la tesi del libro, dobbiamo riformare prevalentemente le istituzioni diciamo pubbliche, quelle private naturalmente hanno mostrato qualche crepa, ma diciamo nel complesso mi sembra che abbiano tenuto. Sulle istituzioni pubbliche, che poi influiscono sul modo di funzionare di quelle private, invece siamo ancora piuttosto indietro, diciamo non, ecco, gli ultimi mesi non ci danno delle buone speranze, sì, per il futuro. Infatti stavo appunto dicendo, se guardiamo un po' alla realtà attuale, a quello che è avuto negli ultimi mesi, dobbiamo avere un po' di pazienza nel fatto di aspettarci che possano cambiare appunto le istituzioni pubbliche. Possiamo sperare però che attraverso appunto l'iniziativa anche dei singoli, anche di chi opera all'interno del pubblico, si possa dare un po' più di efficienza, per esempio all'università, per esempio alla scuola, per esempio a tutti i settori che indirettamente influiscono un po' al clima economico complessivo, possono avere appunto un effetto, diciamo così, positivo per portare in avanti un po' un paese che comunque ha tante risorse che possono essere e devono essere valorizzate. Per concludere, professor Macchiati. Certo, assolutamente. Iniziamo il 2017 con questa speranza per il futuro, assolutamente la dobbiamo conservare, se no finiremo per essere chiamati da qualcuno dei gufi, e questo certo Proprio non va bene. No, quella stagione speriamo che sia passata, e comunque riflettere sui temi di questa Italia che cresce poco è importante, e questo aiuta molto questo libro, Perché l'Italia cresce poco, di Alfredo Macchiati, edito dal Mulino, sono 280 pagine per 26 euro. Grazie a professor Macchiati per essere stato con noi questa sera, grazie a Peter Bescapè in regia e a Luca Cremonesi in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.